Ecco, noi Simone Massi, direttore della terza edizione del Festival Anima V a Pergola dall'11 al 15 luglio. Simone, ben trovato. Grazie, Raccontiamo cos'è. grazie mille. Anima V è un festival internazionale dedicato al cinema d'animazione poetico ed autore. Poi, in realtà è anche più di questo, perché oltre al cinema d'animazione ospitiamo anche degli autori, delle personalità che non necessariamente sono collegate al cinema d'animazione, ma che noi comunque riteniamo vicine per poetica, per sensibilità e per altre cose. Quindi, oltre ai film in concorso, abbiamo anche, ecco, degli ospiti che ci vengono ogni anno a trovare e che rendono prestigio al festival, insomma. Le Quante sono le opere presentate? opere presentate sono 16 nel concorso internazionale, provenienti da molti paesi del mondo, e sono 8 per il concorso scuola, sono delle opere meno mature, realizzate dagli studenti del corso di cinema di animazione della scuola d'arte di Urbino. Quindi 16 più 8, 24 in totale. Dopo c'è la personale del maestro Manfredo Manfredi, e anche in quel caso presenteremo svariati cortometraggi d'animazione. Com'è strutturata questa 5 giorni? Parte oggi con appunto l'omaggio al regista di cinema di animazione Manfredo Manfredi. Ci sono anche altri ospiti musicali, adesso cercherò di essere il più breve possibile. Diciamo, il personaggio e la persona più importante è appunto Manfredo Manfredi. Domani si prosegue con un maestro del teatro di marionette georgiano che si chiama Rezo Gabriadze. E poi venerdì abbiamo Goffredo Fofi. Sabato Roberto Erlitzka e concludiamo domenica con il poeta, scrittore e paesiologo Franco Arminio. Gli orari e i luoghi del festival, Simone? Noi cominciamo alle 20:30 a Pergola, nel giardino di Casa Godio, e andiamo avanti fino a tarda notte, come si dice, perché, come dicevo, oltre a questi ospiti che ho citato, ce ne sono altri che presentano piccoli spettacoli di teatro, canzoni, gli stessi film in concorso, quindi è difficile citarli tutti. Però ecco, non ci sono soltanto questi ospiti, quindi cominciamo alle 20:30 e finiamo in tarda serata. E poi sopra ci sono dei piccoli appuntamenti pomeridiani dislocati in altri comuni, comunque vicini a Pergola, San Lorenzo in Campo, Arcevia, Cagli, quindi coinvolgiamo anche il territorio, diciamo. Sì. Senti, i riferimenti web per la programmazione e tutte le informazioni? www.animavi.org, anzi animavi perché l'accento non è previsto, animavi.org. Bene, ricordiamo allora, terza edizione di Anima V a Pergola dall'11 al 15 luglio. Un saluto e un ringraziamento al direttore Simone Massi. Simone, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie mille per l'ospitalità. Care cose anche a voi. Un abbraccio.